Vangelo di San Giovanni, capitolo quinto. Dopo queste cose ci fu una festa dei Giudei, e Gesù salì a Gerusalemme. Or a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, v'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto quei portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento, e il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito. E qui vi era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da gran tempo stava così, gli disse: «Vuoi essere risanato?» L'infermo gli rispose: «Signore, io non ho alcuno che, quando l'acqua è mossa, mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io, un altro ci scende prima di me». Gesù gli disse: «Levati, prendi il tuo lettuccio e cammina». E in quell'istante quell'uomo fu risanato, e preso il suo lettuccio si mise a camminare. Ora quel giorno era un sabato, perciò i Giudei dissero a quell'uomo guarito: «È sabato, non ti è lecito portare il tuo lettuccio». Ma egli rispose loro: «È colui che mi ha guarito che mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina». Essi gli domandarono: «Chi è quell'uomo che t'ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse, perché Gesù era scomparso, essendovi in quel luogo molta gente. Dipoi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, tu sei guarito, non peccar più, che non t'accada di peggio». Quell'uomo se ne andò e disse ai Giudei che Gesù era quello che l'aveva risanato, e per questo i Giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva delle cose di sabato. Gesù rispose loro: «Il Padre mio opera fino ad ora, ed anche io opero». Perciò, dunque, i Giudei più che mai cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù quindi rispose e disse loro: in verità io vi dico che il figliuolo non può da se stesso far cosa alcuna, se non la vede fare dal Padre, perché le cose che il Padre fa, anche il figliuolo le fa similmente, poiché il Padre ama il figliuolo e gli mostra tutto quello che egli fa. Gli mostrerà delle opere maggiori di queste, affinché ne restiate meravigliati. Difatti, come il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il figliuolo vivifica chi vuole. Oltre a ciò, il Padre non giudica alcuno, ma ha dato tutto il giudizio al figliuolo, affinché tutti onorino il figliuolo come onorino il Padre. Chi non onora il figliuolo non onora il Padre che l'ha mandato. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità io vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del figliuolo di Dio, e quelli che l'avranno udita vivranno. Perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al figliuolo d'aver vita in se stesso, e gli ha dato autorità di giudicare, perché è il figliuolo dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e verranno fuori, quelli che hanno operato bene in resurrezione di vita, e quelli che hanno operato male in resurrezione di giudizio. Io non posso far nulla da me stesso, come odo, giudico, e il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Se io rendo testimonianza di me stesso, la mia testimonianza non è verace. Se un altro che rende testimonianza di me, e io so che la testimonianza che gli rende di me è verace. Voi avete mandato da Giovanni, ed egli ha reso testimonianza alla verità. Io, però, la testimonianza non la prendo dall'uomo, ma dico questo affinché voi siete salvati. Egli era la lampada ardente e splendente, e voi avete voluto per breve ora godere alla sua luce. Ma io ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni, perché le opere che il Padre mi ha dato a compiere, quelle opere stesse che io fo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato, e il Padre che mi ha mandato ha egli stesso reso testimonianza di me. La sua voce voi non l'avete mai udita, e il suo sembiante non l'avete mai veduto, e la sua parola non l'avete dimorante in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Voi investigate le scritture perché pensate d'aver per mezzo d'esse vita eterna, ed esse son quelle che rendono testimonianza di me. Eppure non volete venire a me per aver la vita. Io non prendo gloria dagli uomini, ma vi conosco che non avete l'amore di Dio in voi. Io sono venuto nel nome del Padre mio, voi non mi ricevete, se un altro verrà nel suo proprio nome, voi lo riceverete. Come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Non crediate che io sia colui che vi accuserà davanti al Padre, v'è chi vi accusa, ed è Mosè nel quale avete riposta la vostra speranza. Perché se credeste a Mosè, credereste anche a me, poiché egli ha scritto di me. Ma se non credete agli scritti di lui, come crederete alle mie parole?